Capitolo 10. Leslie Moore. Vado a fare una passeggiata sulla spiaggia, disse Anna a Gog e Magog una sera d'ottobre. Erano i soli a cui potesse dirlo perché Gilbert era andato all'altro capo della baia. La casetta presentava l'ordine specchiato che era logico attendersi da chi aveva avuto gli insegnamenti di Marilla Cuthbert. E Anna si avviò verso la spiaggia con la coscienza pulita. Già nelle settimane precedenti aveva ispezionato la costa a volte con Gilbert, altre con il capitano Jim e ancora altre volte da sola, accompagnata dai suoi pensieri e dai nuovi dolcissimi sogni che illuminavano la vita con i colori dell'arcobaleno. Le piacevano la tondeggiante e nebbiosa spiaggia della baia e l'argenteo arenile sabbioso battuto dai venti, ma adorava la spiaggia della scogliera, ricca di rocce, caverne, formazioni di massi lavorati dalla risacca, grotte dove i ciottoli luccicavano sul fondo di pozze d'acqua. E fu a questa spiaggia che si diresse quella sera. Per 3 giorni una tempesta d'autunno aveva flagellato il lido. I marosi si erano infranti con fragore sugli scogli. La spuma bianca delle onde si era avventata al di sopra della barra. La pace azzurra della baia di Four Winds era stata sostituita da una nebbia greve su un mare agitato. Al termine la spiaggia appariva come rinnovata. Non soffiava un alito di vento. Unico moto perpetuo nell'immobilità generale era la risacca che si slanciava sulla sabbia e sugli scogli, ribollendo con spumosi mulinelli. Oh, per un momento così vale la pena di sopportare settimane di tempesta, esclamò Anna spingendo lo sguardo al largo dalla vetta della scogliera. Poi scese con cautela il ripido sentiero che conduceva alla cala sottostante, racchiusa tra rocce, mare e cielo. Voglio ballare e cantare, disse. Non c'è nessuno qui e i gabbiani non faranno la spia. Posso fare la matta come mi pare e piace. Sollevò la sottana e prese a danzare sulla striscia compatta di sabbia, a un passo dalle onde schiumose che venivano a morire ai suoi piedi. Continuò a volteggiare, ridendo come una bambina, finché non raggiunse il piccolo promontorio che chiudeva la cala a est. Allora si fermò di botto, arrossendo. Non era sola, qualcuno l'aveva vista danzare e ridere. La ragazza dai capelli biondi come l'oro e dagli occhi azzurri come il mare era seduta su uno scoglio seminascosto da uno sperone roccioso. Guardava Anna con espressione indefinibile, composta di sorpresa, comprensione e di una punta di invidia. Era a capo nudo e un nastro rosso vivo tratteneva gli splendidi capelli più che mai simili alle sontuose serpi di Browning. Indossava un abito scuro di fattura modesta, ma una cintura di lucida seta rossa le cingeva i fianchi, facendo risaltare il corpo armonioso. Le mani intrecciate sul ginocchio erano abbronzate e segnate dal lavoro, ma la pelle del collo e del viso era bianca come il latte. Un fugace bagliore del sole calante irruppe all'orizzonte e andò a posarsi su quei capelli d'oro. Per un momento quella figura femminile sembrò la personificazione dello spirito del mare. Con tutto il suo mistero, la sua forza interiore, il suo fascino sfuggente. Lei penserà che sono pazza, balbettò Anna, cercando di riprendere il controllo di se stessa. Era veramente disdicevole che quella ragazza, tanto dignitosa, avesse visto lei, la moglie del dottor Blythe, una donna sposata con una reputazione da difendere, in atteggiamento sfrenato e infantile. No, disse la ragazza, non lo penso. Non aggiunse altro. Aveva un tono di voce inespressivo e un modo leggermente scostante. Ma qualcosa nei suoi occhi ardenti eppure timidi, insolenti eppure imploranti, impedì ad Anna di andar via. Invece si sedette sullo scoglio vicino alla ragazza. Facciamo conoscenza, disse con un sorriso che era sempre riuscito a conquistarle confidenza e simpatia. Io sono la moglie del dottor Blythe e vivo nella casetta bianca vicino alla spiaggia della baia. Sì, lo so, disse la ragazza. Io sono Leslie Moore. La moglie di Dick Moore, aggiunse in tono sostenuto. Anna restò senza parole per lo stupore. Non aveva pensato che quella ragazza potesse essere sposata. Non c'era nulla in lei della classica moglie. E così era questa la vicina che Anna aveva immaginato come la tipica massaia di Four Winds. Anna stentava ad adattarsi all'idea. Allora lei vive nella casa grigia sulla riva del ruscello? Balbettò. Sì, già da un pezzo avrei dovuto farle visita, disse l'altra. Non offrì spiegazioni o scuse per non averlo fatto. Oh, venga, la prego, disse Anna, ritornando in sé. Dovremmo fare amicizia, dato che abitiamo tanto vicino. È l'unico difetto di Four Winds, non ci sono vicini, altrimenti è perfetto. Le piace? Oh, se mi piace, lo adoro. È il posto più bello che abbia mai visto. Io non ho visto molti posti, disse Leslie Moore lentamente, ma ho sempre pensato che fosse bellissimo. Anch'io lo adoro. Il tono di voce, come l'atteggiamento, mostrava timidezza, ma anche un ardore contenuto. Anna ebbe l'impressione che quella strana ragazza, non riusciva a chiamarla altrimenti, avesse molto da dire, volendo. Vengo spesso alla spiaggia, aggiunse. Anch'io, disse Anna, mi meraviglio che non ci siamo mai incontrate prima. Probabilmente lei la sera viene prima di me, di solito è tardi, quasi buio quando vengo io, e mi piace venire subito dopo una tempesta, come ora. Non ho grande simpatia per il mare quando è calmo, a me piace il tumulto, lo schianto, il fragore. Oh, a me piace sempre, affermò Anna. Il mare qui a Four Winds è quello che era per me a casa il viale degli innamorati. Stasera appariva così libero, così indomito, e anche in me si è scatenato qualcosa per imitazione. Ecco perché mi sono lasciata andare a ballare sulla spiaggia. Naturalmente credevo che non ci fosse nessuno a vedermi. Se mi avesse visto la signorina Cornelia Bryant, avrebbe previsto un triste destino per il giovane dottor Blythe. Conosce Cornelia? disse Leslie ridendo. Aveva un riso incantevole, nasceva fresco e spontaneo e improvviso come il gorgoglio di un neonato. Anche Anna rise. Oh sì, è venuta parecchie volte nella casa dei miei sogni. La casa dei suoi sogni? Oh, è il nomignolo affettuoso che io e Gilbert diamo alla nostra casa. La chiamiamo così solo tra noi. Mi è scappato inavvertitamente. Allora la casetta bianca della signorina Russell per lei è la casa dei sogni? Disse Leslie con stupore. Possedeva una casa dei sogni un tempo, ma era un gran palazzo, aggiunse con una risata. Questa volta la dolcezza del suono fu offuscata da una nota di derisione. Oh, anch'io sognavo un gran palazzo, disse Anna, come tutte le ragazze. E poi siamo tutte felici di vivere in case normali di 8 stanze che appagano i nostri desideri, perché lì c'è il nostro principe. Ma lei un palazzo sarebbe aspettato davvero, è tanto bella. Oh, me lo lasci dire, bisogna che glielo dica. Non riesco a contenere la mia ammirazione. Lei è l'essere più splendido che io abbia mai visto, signora Moore. Oh, se vogliamo essere amiche, chiamami Leslie, disse l'altra con nuovo calore. Certo, e tu chiamami Anna. So di essere bella, continuò Leslie guardando il mare con cipiglio. Odio la mia bellezza. Vorrei essere mora e brutta come la ragazza più mora e più brutta del villaggio. Beh, che ne pensi della signorina Cornelia? Il brusco cambio di argomento rese impossibili ulteriori confidenze. La signorina Cornelia è un tesoro, vero? Disse Anna. La settimana scorsa Gilbert e io siamo stati ufficialmente invitati a casa sua. Ci ha servito un eccezionale rinfresco. Mi sembra di aver letto questa espressione nelle cronache mondane, disse Leslie con un sorriso. Beh, più che rinfrescarci, ci ha rimpinzati. È incredibile quello che ha cucinato per 2 persone. C'erano piatti salati e dolci di ogni genere, tranne la crostata alla crema di limone. 10 anni fa la signorina Cornelia ha vinto il primo premio per la crostata alla crema di limone all'esposizione di Charlottetown e da allora non ne ha più fatte. Nel timore di non riuscire a mantenere lo stesso livello. Avete mangiato tutto quello che avrebbe voluto lei? Oh, io no. Gilbert invece l'ha conquistata, mangiando non ti dico quanto. A sentire lei non c'è uomo che non preferisca una buona crostata alla Bibbia. Sai, voglio bene alla signorina Cornelia. Anch'io, disse Leslie, è la mia migliore amica. Anna si chiese allora perché la signorina Cornelia non le avesse mai parlato della signora Dick Moore, quando invece aveva tagliato i panni addosso a ogni abitante di Four Winds e del circondario. Non è bello? disse Leslie dopo un attimo di silenzio, indicando l'incantevole effetto di un raggio di luce che, penetrato in una spaccatura della roccia alle loro spalle, illuminava una pozza d'acqua verde scuro. Mi basterebbe aver visto questo per tornare a casa soddisfatta. Gli effetti di luce e ombra su queste spiagge sono meravigliosi, ammise Anna. Il mio stanzino da cucito si affaccia sulla baia e io, seduta alla finestra, mi riempio gli occhi di quell'incanto. Le ombre e i colori cambiano completamente da un momento all'altro. E tu non ti senti mai sola? Chiese Leslie bruscamente. Mai? Nemmeno quando sei da sola? No, non credo di essere mai stata davvero sola in tutta la mia vita, rispose Anna. Anche quando sono da sola ho una buona compagnia, sogni, fantasie, fantasticherie. Mi piace molto stare da sola, di quando in quando, per pensare e assaporare quello che mi sta intorno. Ma mi piace avere degli amici e divertirmi. Oh, verrai a trovarmi, spesso, non dirmi di no. Credo, aggiunse Anna con una risata, che conoscendomi mi troverai simpatica. Mi chiedo se tu troverai simpatica me, disse Leslie in tono serio. Non cercava complimenti, portò lo sguardo sulle onde che andavano ornandosi di argente e ghirlande di spuma, e sui suoi occhi si stese un velo. Oh, sono certa di sì, disse Anna, e non devi pensare che sono un irresponsabile perché mi hai visto danzare sulla spiaggia al tramonto. Ho ancora bisogno di un po' di tempo per imparare a comportarmi come una compassata signora. Sai, non è molto che sono sposata. Mi sembra di essere ancora una ragazza e a volte addirittura una bambina. Io sono sposata da 12 anni, disse Leslie. Era incredibile. Ma tu non puoi avere la mia età, esclamò Anna. Devi esserti sposata giovanissima. Avevo 16 anni, disse Leslie, alzandosi e prendendo il berretto e la giacca posati sullo scoglio. Ora ne ho 28. Devo andare. Anch'io. Probabilmente Gilbert sarà già rientrato, ma sono felice che ci siamo incontrate sulla spiaggia questa sera. Leslie non disse nulla e Anna ci restò male. L'amicizia che aveva offerto con tanta prontezza era stata accolta con una certa riserva, se non addirittura respinta. In silenzio risalirono la scogliera e ai raggi della luna attraversarono un pascolo d'erba sottile e morbida come un tappeto. Quando giunsero sul sentiero, Leslie si voltò. Io vado da questa parte ora. Vuoi venirmi a trovare qualche volta? Era un invito fatto con mala grazia e forse anche con riluttanza, pensò Anna. Verrò, se ti fa piacere, rispose con una certa freddezza. Ma certo, esclamò Leslie Moore con un calore che sembrò vincere una precedente costrizione. Allora, verrò. Arrivederci, Leslie. Arrivederci. Anna rientrò a casa a soprappensiero e descrisse l'incontro a Gilbert. E così la signora Moore non appartiene alla razza che conosce Giuseppe, disse Gilbert in tono provocatorio. No, no, non esattamente. Eppure credo che fosse di quella razza un tempo, ma è andata o è stata mandata in esilio, disse Anna meditabonda. È certamente molto diversa dalle altre donne di qui. Con lei non si può parlare di burro e uova. E pensare che me la figuravo una specie di signora Linde. Hai mai visto Dick Moore, Gilbert? No. Ho visto parecchi uomini al lavoro nei campi della fattoria, ma non so chi sia Moore. Non l'hai mai nominato, sono sicura che non è felice. Da quel che mi dici si sposò giovane, quando ancora non conosceva i propri sentimenti e scoprì troppo tardi di aver fatto un errore. È una tragedia comune, Anna. Una donna intelligente avrebbe fatto buon viso a cattiva sorte. La signora Moore evidentemente si è guastata il carattere. Oh, non giudichiamola frettolosamente, intervenne Anna. Non credo che il suo sia un caso comune. Capirai il suo fascino quando la conoscerai, Gilbert. E non ha a che vedere con la bellezza. Sento che possiede un'anima ricca, che potrebbe rivelarsi un reame meraviglioso a chi riuscisse a trovarne la chiave. Ma per qualche misteriosa ragione, Leslie Moore rifiuta il prossimo e tiene racchiuse queste possibilità che non riescono a svilupparsi e a fiorire. E tutta la sera che cerco di dare una definizione di Leslie Moore e non ne ho trovate di migliori. Voglio chiedere informazioni alla signorina Cornelia. Credo Capitolo 11. La storia di Leslie Moore. Sì, l'ottavo bambino è arrivato 15 giorni fa, disse la signorina Cornelia, accomodata davanti al camino della casetta, in un fresco pomeriggio di ottobre. È una femmina. Fred ha dato in escandescenze. Voleva un maschio, ha detto. Ma la verità è che non lo voleva né maschio né femmina. Se fosse nato un maschio avrebbe dato in escandescenze perché non era una femmina. Prima di quest'ultima ci sono 4 femmine e 3 maschi, perciò non fa differenza. Ma lui ha voluto fare la sua scenata, tipico degli uomini. La piccola è un tesoro con i suoi bei vestitini, ha gli occhi neri e delle manine che sono un amore. Oh, devo andare a vederla, adoro i neonati, disse Anna, che nutriva in petto una gioia segreta e inesprimibile. Belli sono belli, ammise la signorina Cornelia, ma a quanto pare certa gente ne ha di più del necessario, credi a me. La povera cugina Flora che sta a Glen ne ha avuti 11 e fa una vita da schiava. Il marito si è suicidato 3 anni dopo. Tipico degli uomini. Perché l'ha fatto? Chiese Anna piuttosto colpita. Gli è andata storta qualcosa e si è buttato nel pozzo. Una vera liberazione. Era un tiranno. Però il pozzo si è rovinato. Flora, poveretta, non si è mai più decisa a usarlo. Così ne ha fatto scavare un altro, con una spesa tremenda, e l'acqua è cattiva. Se proprio voleva affogarsi, aveva tutta l'acqua della baia, no? Gli uomini così a me fanno perdere la pazienza. A quanto ricordo, ci sono stati solo 2 suicidi a Fort Winds. L'altro era Frank West, il padre di Leslie Moore. A proposito, Leslie è già venuta a farti visita? No. Ma l'ho incontrata sulla spiaggia qualche sera fa e ci siamo presentate, disse Anna restando sul chi vive. La signorina Cornelia annuì. Ne sono contenta, cara. Speravo che faceste conoscenza. Che ne pensi di lei? Oh, mi è parsa bellissima. Naturale. Mai nessuna Fort Winds ha potuto fare concorrenza a lei. Hai visto che capelli? Quando li scioglie le arrivano ai piedi. Ma io volevo dire se ti è piaciuta come persona. Oh, credo che potrei volerle bene se me lo permettesse, disse Anna lentamente. Ma non te l'ha permesso. Ti ha respinta e tenuta a distanza, vero? Povera Leslie, non ti sorprenderesti se sapessi che vita ha avuto. Una tragedia, una vera tragedia, ripeté con enfasi la signorina Cornelia. Vorrei che mi parlasse di lei, se può farlo, senza svelare dei segreti. Oh, mia cara, tutti a Fort Winds conoscono la storia della povera Leslie. Nessun segreto, nei fatti perlomeno. I sentimenti li conosce solo lei. Credo di essere la sua migliore amica, eppure non l'ho mai sentita lamentarsi. Hai visto Dick Moore? No. Beh, tanto vale che ti dica tutto per bene dal principio, così capirai di che si tratta. Come stavo dicendo, il padre di Leslie si chiamava Frank West. Era intelligente e inetto, come tanti uomini. Oh, cervello ne aveva da vendere, ma non gli è poi servito a granché. Incominciò all'università e ci andò per 2 anni, poi si ammalò. Tutti i West tendevano alla tisi, così Frank tornò a casa e si dedicò alla fattoria. Sposò Rose Elliott, una ragazza dell'altra parte della baia. Rose era la bellezza di Fort Winds. Leslie ha il viso della madre, ma di gran lunga più carattere e un personale molto migliore. Vedi, Anna, io penso che noi donne dovremmo sostenerci a vicenda. Sa Dio se non dobbiamo già sopportare troppo per colpa degli uomini senza criticarci tra di noi. È raro che mi senta sparlare di un'altra donna, ma non sono mai stata troppo tenera nei riguardi di Rose Elliott. Intanto era viziata, credi a me, e poi era pigra, egoista e sempre pronta al pianisteo. Frank non ci sapeva fare con la terra, così erano poveri in canna, vivevano di patate, punto e basta, credi a me. Ebbero 2 figli, Leslie e Kenneth. Leslie aveva la bellezza della madre e l'intelligenza del padre, più qualcosa che non aveva preso né dall'uno né dall'altra. Somigliava alla nonna West, una donna straordinaria. Da bambina era sveglia, simpatica e allegra. Le volevano tutti bene. Era la beniamina del padre, gli era attaccata. Erano amiconi, come diceva lei. Non ne vedeva i difetti e, a dire il vero, era un uomo con un certo fascino. Leslie aveva 12 anni quando accadde la prima disgrazia. Adorava il fratellino Kenneth, aveva 4 anni meno di lei ed era proprio un amore di bambino. Un brutto giorno morì. Cadde da un carro di fieno che stava entrando nel fienile e la ruota schiacciò il povero corpicino. Sai, Anna, Leslie vide tutta la scena dall'alto. Diede un urlo, il garzone ha detto di non aver mai sentito niente del genere in vita sua. A suo dire, solo la tromba dell'arcangelo Gabriele gli avrebbe levato quel suono dalle orecchie. Ma dopo non gridò e non pianse più. Saltò giù dal fienile sul fieno e dal fieno a terra e prese tra le braccia il corpicino inerte, sanguinante e ancora caldo. Oh, Anna, dovettero strapparglielo a forza. Mi mandarono a chiamare. Dopo tanto tempo non riesco ancora a parlarne. La signorina Cornelia si asciugò i dolci occhi castani e cucì in triste silenzio per qualche minuto. Beh, riprese infine, ormai non c'era più niente da fare. Seppellirono il piccolo Kenneth nel camposanto, dall'altra parte della baia, e dopo un po' Leslie tornò a scuola e agli studi. Non parlò più di Kenneth e da quel giorno non le ho più sentito pronunciare quel nome. Ma la vecchia ferita deve ancora farle male a volte. Era una bambina, però il tempo è generoso con i bambini, mia cara. Ritornò finalmente a ridere, aveva un riso incantevole, non lo si sente più tanto spesso. L'ho sentita l'altra sera, disse Anna, hai ragione, è incantevole. Dopo la morte di Kenneth, Frank West incominciò ad andare giù. Non era un uomo forte, fu un brutto colpo per lui perché voleva un gran bene al bambino, anche se, come ho detto, la sua preferita era Leslie. Diventò musone, malinconico e non riuscì più a lavorare. E un giorno, quando Leslie aveva 14 anni, si impiccò in salotto. Nel bel mezzo del salotto, al gancio del lampadario, Anna, tipico degli uomini. Ed era pure l'anniversario di nozze. La giornata più adatta da scegliere, vero? E naturalmente a trovarlo fu la povera Leslie. Quella mattina entrò in salotto cantando con dei fiori freschi da mettere nei vasi e vide il padre appeso al soffitto con la faccia nera come il carbone. Oh, una scoperta tremenda, credi a me. Oh, è terribile, disse Anna rabbrividendo. Povera, povera bambina. Al funerale del padre Leslie non pianse come non aveva pianto a quello di Kenneth. Ma Rose gridò e si disperò per due. E Leslie fece di tutto per calmare e consolare la madre. Rose scandalizzò tutti e anche me, ma Leslie non perse mai la pazienza. Voleva molto bene alla madre. Leslie è parziale, per lei i suoi non sbagliavano mai. Beh, seppellirono Frank West accanto a Kenneth. E Rose gli fece una gran tomba, troppo grande per l'ometto che era stato, credi a me. Comunque era senz'altro troppo cara per le possibilità di Rose e la fattoria venne ipotecata per più di quel che valeva. Ma poco tempo dopo morì la nonna West e lasciò a Leslie del denaro, non tanto, ma sufficiente a pagarle un anno alla Queen's Academy. Leslie aveva deciso di diplomarsi maestra e poi guadagnare il necessario per frequentare l'università a Redmond. Era stato un progetto del padre, voleva che la figlia arrivasse dove lui non era arrivato. Leslie aveva molte ambizioni e un gran cervello in testa. Andò alla Queen's, fece 2 anni in uno ed ebbe il massimo dei voti e quando venne a casa le toccò la scuola di Glenn. Era così contenta, piena di speranze, di vita e di entusiasmo. Quando penso a com'era allora e a come ora mi viene da dire accidenti agli uomini. La signorina Cornelia spezzò il filo con feroce determinazione, come se con quel gesto volesse tagliare la testa a tutta l'umanità. Dick Moore entrò nella sua vita quell'estate. Il padre Ebner Moore gestiva un negozio a Glen, ma Dick aveva una vena di marinai da parte di madre. Navigava d'estate e lavorava d'inverno nel negozio del padre. Era un bel ragazzo, grande e grosso, con un animo piccino. Voleva sempre qualcosa e poi, quando l'aveva ottenuta, non la voleva più. Tipico degli uomini. Oh, non si lamentava della buona sorte, ed era simpatico e cordiale quando tutto filava liscio, ma beveva parecchio, e giravano delle voci su di lui e una ragazza del villaggio. A dirla tutta, non era nemmeno degno di baciare i piedi a Leslie. E poi era metodista, ma era completamente pazzo di lei. In primo luogo perché era bella, e in secondo luogo perché non ne voleva sapere di lui. Giurò che l'avrebbe avuta e la ebbe. E come ci riuscì? Oh, fu una vera e propria malvagità. Non perdonerò mai Rose West. Vedi, cara, Ebner Moore aveva acceso l'ipoteca sulla fattoria West e il pagamento degli interessi era in ritardo di anni. Così Dick Moore andò dalla signora West e le disse che se Leslie rifiutava di sposarlo, le avrebbe fatto espropriare la terra del padre. Rose fece una gran scenata, svenne, pianse e implorò Leslie di non permettere che la scacciassero di casa. Disse che sarebbe morta di crepacuore se avesse dovuto lasciare la casa dove era entrata come sposa. Non me la sento di condannarla per questo, ma mai avrei pensato che fosse tanto egoista da sacrificare addirittura la carne della sua carne e il sangue del suo sangue. E invece, fu proprio così. Leslie cedette, voleva molto bene alla madre e avrebbe fatto qualunque cosa per evitarle dei dispiaceri. Così sposò Dick Moore. Allora nessuno capì perché. Solo molto tempo dopo scoprì che era tutta opera della madre. Avevo dei sospetti, però, perché sapevo che l'aveva respinto più di una volta e non era da Leslie un voltafaccia del genere. E poi sapevo che Dick Moore non era il tipo d'uomo da poter piacere a Leslie, anche se era bello e brillante. Naturalmente non fecero il banchetto di nozze, ma Rose mi chiese di andare alla cerimonia. Ci andai, ma me ne pentii. Avevo visto Leslie al funerale del fratello e a quello del padre e ora sembrava che assistesse al proprio funerale. Ma credi a me, Rose era tutta pimpante. Dick andò a vivere a casa di Leslie. Rose non sopportava l'idea di separarsi dall'amata figlia e vi passò l'inverno. Durante la primavera Rose si buscò la polmonite e morì. Peccato che non fosse morta un anno prima. Leslie ne ebbe un enorme dispiacere, ma già, spesso chi non lo meriterebbe viene amato, mentre chi è degno di affetto non ne riceve. Quanto a Dick, era ormai stanco di una tranquilla vita matrimoniale. Tipico degli uomini. Non poteva star fermo. Andò nella Nuova Scozia a trovare dei parenti. Il padre era di laggiù e scrisse a Leslie che partiva per L'Avana con il cugino George Moore. La nave era la Quattro Sorelle, sarebbero stati via circa 9 settimane. Dovette essere un sollievo per Leslie, ma non disse mai nulla. Dal giorno delle nozze diventò com'è, ancora adesso, gelida e orgogliosa e scostante con tutti tranne che con me. Io non sono certo tipo da lasciarmi tenere a distanza, credi a me. Ho fatto del mio meglio per stare vicino a Leslie, a dispetto di tutto. Mi ha detto che lei è la sua migliore amica, disse Anna. Davvero? Esclamò la signorina Cornelia con soddisfazione. Beh, sono contenta di sentirlo dire. A volte mi chiedo se le faccia piacere la mia presenza, ma non ha mai fatto capire il contrario. Con te si deve essere aperta più del solito, altrimenti non ti avrebbe fatto questa confidenza. Oh, povera ragazza, quanto è infelice. Dick Moore non lo vedo mai, ma vorrei piantargli un coltello nel petto. La signorina Cornelia si asciugò di nuovo gli occhi e, dato sfogo ai suoi sentimenti con quel proposito sanguinario, riprese il racconto. Così Leslie rimase laggiù da sola. Prima di andare via, Dick aveva seminato e il vecchio Ebner si occupò del raccolto. Passò l'estate e la Quattro Sorelle non era tornata. I Moore della Nuova Scozia fecero ricerche e seppero che era arrivata a L'Avana. Aveva scaricato e ricaricato e poi aveva preso la rotta del ritorno. Non seppero mai altro. Con l'andar del tempo la gente incominciò a dare Dick Moore per morto. Però certi non si poteva essere perché qui ci sono stati casi di marinai ricomparsi dopo anni. Leslie non credeva che fosse morto. E aveva ragione. Che peccato però. L'estate seguente il capitano Jim era a L'Avana. Allora andava ancora per mare, naturalmente. Pensò di guardare un po' in giro. Il capitano Jim è sempre stato un ficcanaso, come tutti gli uomini, e si mise a chiedere nelle locande e nei locali da marinai notizie sull'equipaggio della Quattro Sorelle. A mio vedere era meglio che lasciasse stare il can che dorme. Beh, andò in un posto fuori mano, trovò un uomo che riconobbe alla prima occhiata come Dick Moore, anche se aveva un gran barbone. Il capitano Jim glielo fece tagliare, non ebbe più dubbi, era Dick Moore, perlomeno nel corpo. La mente non c'era più e l'anima, a mio vedere, non l'aveva mai avuta. Cosa gli era successo? Beh, la storia vera non la sa nessuno. I padroni della locanda gli seppero dire soltanto che una mattina, un anno prima, l'avevano trovato steso sulla soglia in condizioni terribili, con la testa quasi fracassata. Pensarono che fosse rimasto ferito in una rissa tra avvinazzati. E probabilmente era vero. Lo presero in casa, mai pensando che riuscisse a cavarsela, e invece se la cavò, e una volta guarito era ridiventato bambino. Non aveva più memoria, né intelletto, né comprendonio. Cercarono di scoprire chi fosse, ma invano. Non sapeva nemmeno più il proprio nome, diceva soltanto poche semplici parole. Aveva con sé una lettera che incominciava «Caro Dick» e portava la firma «Leslie», ma non c'era indirizzo e la busta era sparita. Lo tennero lì. Imparò a fare qualche lavoretto utile, finché non lo trovò il capitano Jim. Lo riportò a casa, e io continuo a dire che non ha avuto una bella idea, anche se forse non c'era nient'altro da fare. Pensò che Dick, tornando a casa e ritrovandosi nell'ambiente e tra le persone di un tempo, avrebbe forse riacquistato memoria, ma non servì a nulla. Da allora è rimasto nella casa vicino al ruscello. È né più né meno che un bambino. Di quando in quando ha i suoi ghiribizzi, ma per lo più è assente, docile e innocuo. Tende a scappare se non è sorvegliato. Ecco il peso che Leslie porta da sola da 11 anni a questa parte. Il vecchio Ebner Moore morì poco dopo il ritorno a casa di Dick e si scoprì che era quasi rovinato. Alla resa dei conti, a Leslie e a Dick non rimase che la vecchia fattoria dei West. Leslie l'ha affittata a John Ward e vive di quell'affitto. A volte d'estate prende un pensionante per arrotondare, ma per lo più chi viene qui preferisce l'altra parte della baia, quella con gli alberghi e le case dei bagnanti. La casa di Leslie è troppo lontana dagli stabilimenti. È da 11 anni che si prende cura di Dick, senza mai allontanarsi, è legata a quell'idiota per tutta la vita. Pensare che sogni, che speranze aveva una volta. Puoi immaginare, cara Anna, cosa deve essere stato per lei, con la sua bellezza, la sua vitalità, la sua ambizione e la sua intelligenza. È una morte lenta. Oh, povera ragazza, disse ancora Anna. Si vergognava quasi della propria felicità. Quale diritto aveva lei di essere tanto felice mentre un altro essere umano era tanto disperato? Cosa ti ha detto esattamente Leslie e come si è comportata la sera in cui l'hai incontrata sulla spiaggia? Chiese la signorina Cornelia. Ascoltò attentamente e assentì con il capo in segno di soddisfazione. A te sarà parsa scostante e fredda, cara Anna, ma ti assicuro che per essere lei si è aperta in modo straordinario. Ti deve aver presa in simpatia. Sono contenta. Forse tu potrai aiutarla molto. Mi ha fatto piacere sapere che qui sarebbe venuta una coppia di sposini giovani, perché speravo che Leslie si facesse degli amici, specialmente se appartenevano alla razza che conosce Giuseppe. Le sarai amica, vero, cara Anna? Oh, molto volentieri, se lei me lo permetterà, disse Anna con spontaneo entusiasmo. No, devi essere amica, che lei lo voglia o no, disse risolutamente la signorina Cornelia. Non far caso se a volte è scostante, non badarci. Ricorda la vita che ha fatto, che fa e che farà per chissà quanto tempo, dato che a quanto pare quelli come Dick Moore vivono un'eternità. Dovresti vedere com'è diventato grasso da quando è a casa. Una volta era piuttosto magro. Fatte l'amica. Tu puoi riuscirci, sei di quelle persone che hanno il dono, ma non prendertela troppo a cuore e non far caso se ha l'aria di non gradire troppo le tue visite. Sa che a certe donne non piace la presenza di Dick. A sentir loro fa venire la pelle d'oca. Convincila a venire qui spesso. Non può allontanarsi molto, non può lasciare Dick da solo per tanto tempo. Dio solo sa cosa potrebbe fare, magari dar fuoco alla casa. Lei è libera praticamente solo dopo che lui si addormenta. Va sempre a letto presto e dorme come un sasso fino alla mattina dopo. Ecco perché ti è capitato di incontrarla alla spiaggia quella sera. Gira parecchio laggiù. Oh, farò del mio meglio, disse Anna. L'interesse per Leslie Moore, acceso in lei sin dal momento in cui l'aveva vista con le oche sulla collina, fu centuplicato dal racconto della signorina Cornelia. La bellezza, il dolore e la solitudine di quella ragazza la attraevano irresistibilmente. Non aveva mai conosciuto nessuna come lei. Fino ad allora aveva avuto come amiche ragazze sane, normali e allegre, i cui sogni giovanili erano stati offuscati soltanto dai comuni dispiaceri della condizione umana e dai lutti familiari. Leslie Moore era diversa e si stagliava come una grande figura tragica di donna oppressa. Anna era decisa a scovare l'entrata del regno di quell'anima solitaria, ricca di sentimenti segreti imprigionati dai crudeli ceppi imposti dal destino. E bada, cara, disse la signorina Cornelia, che non si era ancora sfogata del tutto. Non devi pensare che Leslie sia una miscredente perché non va quasi mai in chiesa o che sia metodista. Non può portare Dick in chiesa, naturalmente. Non che ci tenesse molto nemmeno quando stava bene. Ma ti prego di ricordare, Anna, che in cuor suo Leslie è una presbiteriana convinta.